La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Come si dice? Come si dice nei concerti? Quando arriva il cantante o la cantante e comincia "Vi voglio caldi". Ecco, io oggi vi voglio caldi, ma di febbre, naturalmente. Perché oggi è la bella estate, parleremo di malattie. Non è un programma scientifico, non è un programma medico, parliamo di malattie, disturbi, problemi nati in vacanza o in prossimità delle vacanze. Stavate per partire e all'improvviso avete avuto una febbre, che so, a 39? Oppure se siete stati già in vacanza, eravate lì da un po' e vi siete ammalati mentre eravate al mare, un'insolazione. La cosa più tipica però è sempre il disturbo gastrointestinale. Il gastroenterico è sempre in agguato. Bene, qualunque cosa voi abbiate avuto, 800 24 00 24. Sono qui pronto ad ascoltare tutto quello che vi è successo. E oggi vi divido in pazienti da una parte e infermieri dall'altra, perché avremo due sigle diverse per l'uno o per l'altra categoria. Mi raccomando, siate caldi, 39, 38, anche 40 gradi. C'era un film che si chiamava 40 gradi all'ombra del lenzuolo, chi è che l'ha mai visto? Nessuno di voi, figuriamoci. I miei collaboratori, regia e redazione, hanno una cultura cinematografica pari a zero, va bene, o quasi, o almeno dicono non conosciamo i filmacci che guardavi tu quando eri giovane, vero? Ecco, annuiscono. Che brutte persone, spero succederà a loro quello che è successo a Franca Valeri. Madonna mia, Riccardo, giornata, mi sento tanto male, c'ho male ai reni, mannaggia, fosse un altro figlio. Signorina mia, mi sento una pesantezza di stomaco. Sarà come agnato di gnocchi. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You bring me fever. La puntata di oggi ha un nome, naturalmente, legata a un granello di scabbia con la C. A me piaceva molto questo titolo e infatti l'ho usato. Non ho usato invece il pezzo di Nico Fidenco, o quasi omonimo, legato a un granello di sabbia, perché a noi non piace essere così didascalici. E allora cosa faccio? Vi faccio ascoltare Fever in tantissime versioni. Abbiamo cominciato con Elvis Presley, ma ce ne saranno tantissime altre, perché proprio voglio la febbre, voglio che voi abbiate la febbre e mi chiamate subito 800 24 00 24 per parlarmi dei vostri problemi. Siete stati, che so, nell'America centrale? Ho sentito dire che chi va in Messico, in queste zone, in America centrale, subisce quella che si chiama la vendetta di Montezuma. Su internet ho trovato addirittura la vendetta di Montezemolo, ma non è la stessa cosa, penso. La vendetta di Montezuma è qualcosa che vi colpisce al pancino. Non posso dirvi esattamente che cosa, lo faccio dire agli amici miei. La cacatella longa, longa, longa, longa, filulilla, squacquarella, vuol la padella, dalla sorella, la padella longa, longa, longa, longa. Finì che il medico di turno ci fece dare dei calmanti. Loro erano stati ricoverati per un incidente, se vi ricordate il film, spero di sì, e se non ve lo ricordate andatelo a vedere subito. Erano stati ricoverati per un incidente e naturalmente in ospedale ne combinavano di tutti i colori, compresa anche questo continuo chiamare l'infermiera, la sorella, con la padella. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby. Ancora Fever, questo era Little Willie John, se lo conoscete meglio per voi, io non lo conosco, mi vergogno molto di queste mie ignoranze, non lo conosco, come non so cosa si fa quando uno deve partire, se deve portare dei medicinali o no. Io penso sempre, beh, vado lì, li trovo, invece no, su internet è pieno di consigli sul cosa mettere in valigia prima di partire, a quanto pare servirebbe una valigia a parte. Sentite cosa consigliano: bisogna portare un farmaco per il mal di testa, un farmaco per sindromi da raffreddamento, uno spray per infezioni al cavo orale, mini colluttori per infezioni orali, farmaco per mal di schiena, farmaco per cistiti, per il mal di stomaco, per favorire la digestione, per dolori mestruali, dice dedicato alle donne, nessuno ci avrebbe mai pensato. Farmaco antiepiretico, ossia per combattere la febbre, poi contro gli episodi di vomito, contro gli episodi di dissenteria, la melatonina per riequilibrare lo stato naturale del sonno, contro le ustioni da sole, insomma, per le punture di insetti. Ma se state male, perché non state a casa? State lì, vi procurate una badante e state tranquillamente nella vostra casetta circondati dai vostri farmaci. Fever in the morning, fever when it's late at night. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. You give me fever in the evening, fever all through the night. You give me fever. Tutti la cantano Fever, anche Beyoncé. Dovrei fare anch'io una versione, non so assolutamente cantare, non so fare nulla, ma cantare in particolare mi riesce molto molto male. Giacomo dalla provincia di Brescia ha chiamato l'800 24 00 24 per confessarsi e raccontarci i suoi problemi, vero Giacomo? Sì. Ah, sei stato allora, male. Nell'89. Aspetta Giacomo, aspetta, siccome so che mi direte delle cose tremende riguardo virus e problemi, anche magari finiamo proprio nell'escatologico, è meglio avere qualcosa di tenero sotto che ci conduca in un'atmosfera da fiaba. Ecco, racconta Giacomo la tua fiaba. Allora, nell'89 ero in vacanza nelle Marche, sono andato un giorno alle Tremiti, al ritorno il giorno dopo sono andato in spiaggia e non mi sentivo bene, ho provato la febbre, era 38 e mezzo. Sono andato al pronto soccorso a Porto San Giorgio, mi hanno detto che avevo una broncopolmonite, mi volevano ricoverare e io invece il giorno dopo dovevo tornare a casa, mi sono fatto trasportare a casa. Per un giorno è venuto il medico mio, sì, a farmi 4 antibiotici al giorno, ma la febbre non passava, era andata a 41. Allora sono stato ricoverato in ospedale a Brescia e sempre con febbre a 41, le hanno incominciato a martellarmi con antibiotici, però il bello, sì, il bello, bello, il bello particolare era che il professore che mi aveva poi in cura, tutti i giorni veniva a visitarmi con il codazzo di allievi, perché diceva: una broncopolmonite come c'ha questo signore non l'ascolterete mai più. Beh, dai, come Giacomo, come quella da manuale. Sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni, ecco. Dai, hai avuto allora un momento. Ho fatto 10 giorni di ospedale, mi hanno dato, non so, 70-80 antibiotici, poi hanno azzeccato quello giusto e mi ha passato tutto. Ma secondo te hai preso la broncopolmonite in barca mentre andavi alle Tremiti? No, era una broncopolmonite probabilmente virale, ah, apparentemente non ho scoperto da cosa derivava. L'importante è essere sempre al numero uno. Sei stato il paziente più importante dell'ospedale in quel momento, è stato un bel momento per te. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got. Avrà avuto sicuramente la febbre, Giacomo, per cui gli dedichiamo questo brano musicale, guarda caso Fever. Ma adesso al telefono c'è una persona che non so se è più portata a curare se stessa o gli altri. Maria Teresa Ruta, buongiorno. Buongiorno a voi. Come da Chioccia? Sì, la sindrome della chioccia, vero? Sì, curo tutti quanti, ma non perché sono fanatica delle medicine, eccetera, però penso che portarle insomma serva assolutamente a scongiurare qualunque evento catastrofico che ti può capitare in un posto magari straniero dove già non parli la lingua. Io sono stata in Vietnam, in Indonesia, in Malesia, nel Borneo, nelle Filippine, in Nicaragua, insomma anche in posti dove è un pochino complicato così capirsi. Però se posso, la cosa più clamorosa mi è successa in Italia. Aspetta che hai toccato qualche tasto, ma non un tasto dolente, ma un tasto del telefono. Ti è successo in Italia che cosa? nel senso che mio figlio stava giocando per correre e giocava a rimpiattello coi sassi davanti a casa, dove c'è una bella spiaggia e anche una parte di piccola scogliera con dei sassolini. E era inverno, eravamo al mare, comunque bellissimo, e con un altro bambino, era il nipote del pescatore lì di fronte a casa, e quindi giocavano al rimbalzino dei sassi. E questo bimbo, invece di prendere l'acqua, ha preso la testa di mio figlio quando lui si è voltato per venire. Mamma, non l'avrà mamma, fatto mamma. Apposta, dai, non l'avrà fatto no, apposta. No, ovvio, solo che mi è arrivato un bambino, come potete immaginare, un taglio sulla testa, tutto sanguinante con la testa, sanguinante, tutto sangue ovunque, panico. Guardia medica, ovviamente di un piccolissimo centro della Sardegna, guardia medica sprovvista, no? Sì. Di cose... Di alcune cose, diciamo, sprovvista di alcune cose, soprattutto perché non era periodo di punta. E quindi da allora io porto tutto, perché mio figlio è stato cucito con un filo del 3 e con un ago del 3, insomma roba da sutura pesante, invece lì sulla punta della testa bastava un filo da 1 e un ago da 1. Quindi io adesso tutto c'ho. Ti sento esperta, ago, però, ti sento esperta anche se hai numeri, sei tutto, conosci tutto ormai. Allora guarda, voglio darti una medaglia particolare, resta lì, ti do la medaglia Candy Candy. Di solito, Maria Teresa, io do delle medaglie a quelli che telefonano, e a te do la medaglia Candy Candy perché sei stata una perfetta infermiera, ma lo sei tuttora, spero. No, ma mi diverto a portare tutto, una pomata col cortisone, una pomata senza cortisone, una pomata anestetizzante, serve sempre, e poi credo, adesso io non faccio nomi, però comunque una fiala per lo shock anafilattico, perché ti può sempre capitare in qualunque parte del mondo che un'ape punga te o qualcuno dei tuoi cari o delle persone a te vicine, e voi sapete che insomma bisogna, in quel momento uno si deve inventare anche infermiere, cioè deve rischiare. Ma quando Maria Teresa, noi ti ricordiamo sei stata anche all'isola, quando sei stata all'isola dei famosi, come facevi? Non avevi farmaci con te? Hai sofferto? No, purtroppo no, non ho potuto prendere nulla contro i mosquitos che mi hanno devastato. Però fa niente, insomma, diciamo che sono state cose che sono passate. Il ricordo dell'isola è talmente bello che ha fatto passare anche quel dolore, ma credetemi che quando contro Walter Nudo sono uscita, che poi lui era il vincitore e desideravo che vincesse perché se lo meritava davvero, quando sono uscita ero molto contenta. La prima cosa che hai fatto a casa è stata andare in farmacia. Ma sì, in effetti avevo queste piaghe incredibili che mi sono rimaste per parecchio tempo, fino all'anno dopo avevo le chiazzette dei morsetti dei mosquitos, le famose heheche che sono degli acari delle piante, ho preso l'allergia e adesso non posso dormire sotto le palme. Però sotto le palme tropicali, però vabbè. Beh, non è che lo sta tutti. Se mi invitano ai tropici, mi siedo un po' più in là verso la spiaggia. Non è che tutti i giorni. Non rinuncio al viaggio per quello. Infatti, ma non è che tutti i giorni uno dorme sotto le palme tropicali, magari se sei in città è già difficile. Infatti. Maria Teresa, grazie, guarda, sei stata veramente illuminante. Prenderemo esempio da te, gireremo tutti col filo e con l'ago dell'uno. Sì, tanto tutte pomatine, tutte cose piccole, stanno in valigia in meno di un pugno e uno è tranquillo. Va bene, grazie Maria Teresa. Ovviamente quando ti capi che tu ce l'hai in macchina e la macchina appunto è a 3 chilometri nel parcheggio in fondo alle dune. E beh, fai una corsa e fai in tempo a prendere tutto. Grazie Maria Teresa. Baci, ciao, ciao anche a te, ciao. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning. Io mi domando sempre una cosa, Perché uno deve ascoltare Michael Bublé se c'è già Frank Sinatra? Ma questa è una cosa che mi chiedo io, poi ascoltatelo. Perché mi guardi così, cara redattrice? Mi guardano malissimo, io la penso così. Perché uno deve ascoltare Céline Dion se c'è Barbara Streisand? È come bere quegli amari taroccati, capisci? Quelli che compri al discount con il nome finto. Luigi, da Chieti, pronto? Buonasera. Ah, buonasera, sì, qua è ancora giorno comunque, perché sennò allora, buon pomeriggio, perché oggi è il 9 agosto, perché sennò pensano che sono registrato e me ne sono già andato in vacanza, io che non ci vado mai. Sono qua a Milano. Luigi, cosa ti è successo? Sei stato un infermiere o un paziente? Sono stato un paziente. Paziente, quindi anche per te servirebbe la nostra sigla da fiaba. Ah, Ecco, raccontaci la tua favola sanitaria. Era il Capodanno 2010, quindi fine anno 2009, Capodanno 2010, ero a Berlino, appena arrivato in terra tedesca, sì, mi è salito un febbrone da cavallo con la febbre fino a 41 probabilmente. Avevo con me degli antipiretici, avevo con me delle cose, poi però non facevano effetto. I miei amici mi hanno costretto a chiamare un medico che mi è costato 150 euro, tra l'altro, come visita. Ma cos'è, un luminare dell'università di Jena? Beh, devo dire sì, perché mi ha fatto una febbo e mi è passato subito tutto, però nello stesso tempo si è spaventato per quanto scottassi. Ah, sì. Quando si spaventano i medici la cosa diventa grave, eh? Bisogna stare attenti. No, veramente si è spaventato per quanto scottassi, però per fortuna poi tutto è andato per il meglio. Solo che ho guardato per 3 giorni il cielo sopra Berlino dalla mia stanza. Ah, quindi è vero, non hai passato Capodanno, cosa hai fatto? Capodanno hai dormito? No, Capodanno sono riuscito a passare l'ultimo dell'anno, però ovviamente un po' mani e piedi. Ah, e beh, ci tornerai a Berlino oppure no? Per forza, perché tra l'altro poi ho visto veramente poco, quindi sarà una mia prossima meta, magari in un periodo un po' più caldo piuttosto che con i rigori dell'inverno berlinese. Sì, ma portati dietro sempre qualcosa, mi raccomando, eh. Io sono farmacista, per cui a me non mi manca mai nulla. Ah, però bello, allo stesso tempo lì me l'ha mandata. No, un farmacista deve essere scientifico, non può pensare a queste cose. Vabbè, però sai che è profano. Si uniscono. Grazie Luigi, dai, riprenditi, intanto ti sei già ripreso, stai benissimo. Torniamo, okay. Ciao, ciao, ciao. Torniamo al 1971, perché oggi la Hit Parade è proprio di quell'anno. Numero 10, Tanta voglia di lei, Pooh. Numero 9, Tweedle Dee Tweedle Dum, Middle of the Road. Do you recall some years ago, up in the mountains that were white with snow, inside a cavern, MacDougall he was planning, there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there. Numero 8, We Shall Dance, Demis. Numero 7, Era il tempo delle more, Mino Reitano. Numero 6, Casa mia, Equipe 84. Numero 5, Sempre sempre, Peppino Gagliardi. Numero 4, Donna felicità, Nuovi angeli. Donna felicità, non ha l'amore, donna. Numero 3, Amor mio, Mina. Numero 2, La riva bianca, La riva nera, Iva Zanicchi. Numero 1, Pensieri e parole, Lucio Battisti. Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano. Beh, la paura del sento, preso per mano, mi sento un verme a interrompere questa canzone, però d'altronde vabbè, Battisti è sempre Battisti. 71, perché il 71? Perché nel 71 ho avuto il morbillo e quindi è stato un episodio così di malattia infantile. Maurizio da Imperia, pronto? Maurizio? Ah, questo deve essere uno dei quei... Ah no, sentiamo cosa si dicono. Maurizio, pronto? Sei preoccupato? No, non sono preoccupato, sì, sono preoccupato che non rispondi. Maurizio? Te lo riprovo. Deve essere un'intercettazione, non lo so. Pronto? Niente, proviamo a richiamarlo perché... Era molto bello però sentire quello che si dicono le persone e loro non sanno che noi li stavamo sentendo. Era anche molto bello sentire una cosa prima durante la Hit Parade, mi piaceva moltissimo quando avevamo fatto sentire il pezzetto di canzone dei Nuovi Angeli, il fruscio che si sentiva, veniva veramente in mente il vecchio 45 giri, cose che non ci sono più purtroppo. Maurizio allora sta arrivando o no? Bene, bene, così sentiamo che cosa è successo a Maurizio da Imperia, se si è sentito male. Pronto Maurizio? No, addirittura adesso è occupato. Vabbè, si sarà sentito male al telefono, fa niente. Mi avevano anticipato qualcosa, che c'erano stati un sacco di problemi in un campo scout, e la cosa mi incuriosiva sapere cosa era successo al povero Maurizio. Vabbè, fa niente. Posso raccontarvi di quando sono stato male io che ho avuto il morbillo, ma non vi interessa assolutamente, non vi interessa assolutamente. Ascoltiamo ancora qualcosa, magari un po' di un altro Fever, perché Fever l'hanno cantata tutti, per cui vi faccio anticipare Madonna che canta Fever. You gave me fever. Pronto Maurizio? Sono qua, ecco. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, stavi parlando dei fatti tuoi e noi ti ascoltavamo anche, fra l'altro. Addirittura. Sì, sai come siamo, noi molto curiosi. Allora Maurizio, cosa sei stato, infermiere o sei stato paziente? No, io sono stato soltanto spettatore. Ah, spettatore, allora niente, spettatore niente. Ma di spettatore di cosa? Spettatore, eravamo infatti in campo scout, eravamo nel 93. Sì. E praticamente stavamo giocando, a molti tipo 16-17 anni, giù di lì, e è successo che niente, un amico saltando, pensavamo che stesse facendo finte, invece alla fine si è rotto il manleolo. Ah, cioè questo povero ragazzo da terra che si rotolava in preda al dolore, voi pensavate stava ridendo praticamente, pensavamo che scherzasse, invece non era per niente uno scherzo. Addirittura l'hanno operato poi, quindi. E voi cosa avete fatto? Niente, siete andati almeno a trovarlo? Poi è finito in pronto soccorso, è stato ricoverato in ospedale praticamente. Ah beh, quindi lieto fine proprio per dirla. Sì, sì, si è rovinato un po' l'estate, comunque niente. E poi il bello è stato che neanche dopo un'ora un'amica stava cucinando. Sì? E col coltello si è tagliata praticamente la mano. Ma cos'era, venerdì 17? No, forse era venerdì, però non era venerdì 17. No, ma che sembra veramente il film venerdì 17, un'azione horror dopo l'altra. E cosa avete fatto? Avete riso anche della mano tagliata? No, no, beh, lì ci siamo subito attivati con garze, alcol, cerotti, però il taglio era molto profondo, quindi è finita in ospedale, è stata cucita e poi è ritornata di nuovo con noi, insomma. E tu mi garantisci che poi non è successo altro? Quell'anno no. Ah, per fortuna, eh? Invece il primo anno, ti posso dire, di Lupetti, sì? Era il primo anno per me, per un amico, gli è arrivato praticamente è stato lanciato un pezzo di legno, è stato colpito in testa e anche lì, giù ospedale e giù punti. Maurizio, fammi un piacere. Chiama quando vuoi, ma non passare mai a trovarci, eh? Non so perché. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. La bella estate. A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah, boy. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Per Garibaldi, viva Garibaldi che si ferì. Una versione molto particolare questa di Bruno Lauzi di Fever. D'altronde però rientra perfettamente nel tema di oggi, legata a un granello di scabbia, ossia le malattie, incidenti, problemi di salute durante le vacanze. Perché Garibaldi era appunto in Aspromonte, si è fatto male una gamba. Che forse un amico di quell'ascoltatore di prima, quello che dai lupetti e negli scout vedeva la gente che cadeva come le mosche, ma non si sa. So invece che un ascoltatore, e so che è un maschio per quello che scrive, mi ha mandato un messaggio dicendo: se permetti, questa puntata richiede una urgente grattatina. E vabbè, carissimo, cosa pensi che abbia fatto mentre c'era la borsa? Perché sì, si parla sì, di queste cose, però alla fine succedono, eh? Non è che uno poi ve le stia tirando. Stefano da Roma, per esempio, ci ha chiamato adesso all'800 24 00 24 per raccontarci qualcosa, chissà cosa. Stefano. Salve, buongiorno a tutti, buonasera. Ciao, ma Stefano, fai il marconista, cos'è? Sento un telegrafo sotto. No, adesso non lo senti più. Eh no, infatti non sento più niente. Allora, tu sei stato infermiere oppure paziente? No, io sono stato paziente. Paziente. Sono stato paziente e mi sono trovato, grazie alla mania che hanno tutti gli italiani di quando vanno in ferie, di portarsi appresso le varie medicine. Ma cosa ti è successo? Io praticamente ho avuto un infarto, era Natale del 2005, quindi non era d'estate, però quel farmaco che ho preso, che mi ero portato dietro, mi ha consentito di fare la bella estate l'anno dopo, perché altrimenti non l'avresti vista, tu dici. Non ci sarei arrivato. Ma addirittura un infarto? Infarto, e mi sono salvato con una semplice aspirina, adesso si può dire, perché... I medici mi hanno detto è stato molto bravo a prendere l'aspirina. Io mi ricordavo che qualcuno aveva detto che in casa ho fatto tempo a prendere questa aspirina. Ma guarda, queste cose pensavo succedessero solo nei film di James Bond, che lui risolve all'ultimo momento con cose improbabili. Invece No, succedono, purtroppo succedono. È bello quando uno li può raccontare per una mania di avere per la mania di portarsi appresso sempre tutte le medicine, che mia moglie dice sempre: quando tu fuori, sei sempre quello che ti porti tutte le medicine. Sì, è vero, quel giorno mi ha salvato invece. Ma guarda, siamo felici di questa cosa, ma poi d'estate sei stato bene, cioè adesso non hai problemi. Poi infatti dopo ho fatto la bella estate. Ah, ecco. Altrimenti non l'avrei più fatto. Ma adesso è successo nel 2005. Sei in partenza adesso, stai andando in vacanza? Adesso me ne vado in vacanza tranquillamente, mi porto sempre presso le mie medicine, anzi più di prima, perché adesso me le hanno obbligate. Quindi. Ah, hai un piccolo bagaglio apposito per queste cose? Un piccolo bagaglio, sì. Ok, allora buone vacanze, Stefano. Grazie a te tanto. Ciao. A tutti e portatevi appresso un'aspirina, può essere salutare. D'accordo, ne teniamo conto. Buona giornata. Arrivederci Stefano. E che bella l'avventura, cioè è una brutta avventura all'inizio, però poi si è risolta anche per prontezza di spirito di Stefano. Leonardo invece, da lei. Ecco, pronto? Pronto? Leonardo? Sì. Sei infermiere o paziente? Buon pomeriggio, sei infermiere o paziente? Allora? No, devi dirmi prima se sei stato un infermiere o un paziente. In quell'occasione tutte e due contemporaneamente. E non so cosa mettere allora. Ma tu che lavoro fai? Infermiere. L'infermiere? Ma neanche a farlo apposta, allora aspetta e ti do la medaglia. Grazie. Ecco la medaglia Candy anche a te. Allora, infermiere Leonardo D'Alecco, tu hai detto che sei stato però paziente in quell'occasione. Sì, un contemporaneo. Ti sei autoguarito, che ti è successo? Allora, è stato nell'87, per cui parecchi anni fa. Ero l'ultimo giorno di ferie, fra l'altro, e dovevo rientrare in servizio il giorno successivo. Sì. E dico, vabbè, andiamo in piscina, un bel tuffo in piscina, soltanto che ho calcolato male sia il mio peso che la profondità della piscina, e ho preso una bella frontata col fondo della piscina. Ah, ma c'era l'acqua in piscina, sì? Sì, no, c'era. E non si sa mai se Fantozzi ci insegna che... Non avevo calcolato bene il peso, diciamo, ero leggermente sovrappeso in quel periodo, allora sono andato un po' troppo fondo rispetto al solito. Si è fatto male? No, ho sentito una bella testata, contro qualcosa di più duro della tua testa. Sì. Io mi sono alzato, ho visto la gente intorno a me che era un po' atterrita. Allora, cos'è successo? Stai sanguinando. Vado in bagno, mi guardo, confronto la mia fronte allo specchio, dico, oh caspita, un bel tagliettino, una bella ferita lacero contusa di un bel centimetro e mezzo. Sentite l'uso proprio dei termini giusti, la ferita lacero contusa. Lacero contusa. Un infermiere d'altronde. D'altronde. Dico, vedo la guardia medica, no, non ci voglio andare alla guardia medica, andiamo a casa, vedo, cerco di tamponare la ferita, vedo che continua a sanguinare, la ferita non era molto profonda, però era piuttosto lunghina, insomma un centimetro e mezzo. Vabbè, dico, tanto ho già, mi divertivo, sai, da ragazzi si giocava un po' con l'ago a cucirsi la punta delle dita, proprio perché corre dura. No, ma tu facevi questo gioco, cioè cos'è, il dottor Frankenstein? Si giocava così, sì. Mi fa paura, comunque va bene, dai. Allora, dico, ago e filo, ago piccolissimo ovviamente, però da ricamo, con un filo, adesso sarà, ovviamente richiamando la Clerici, sarà di uno zero, insomma. Ah, era la ruta, non era la Clerici, adesso la scoppia ruta, una guerra. No, mi perdoni. Prepara, filo la sutura, adesso viene là e ti riapre la ferita, guarda. No, spero di no, la ruta. Allora, dico, comincio a infilare l'ago, ho visto che non sento, probabilmente proprio anestetizzato dalla botta stessa, comincio a cucire da un punto, il secondo punto vedo che la ferita non sanguina più, tamponato, cerotino medicato, pomatina antibiotica e tutto punto. Sì. Basta, il giorno dopo sono ritornato tranquillamente, stoicamente a lavorare. E ti sei autosuturato praticamente? Autosuturato. Ma avevi il filo, avevi il filo rosa oppure poi ti sembrava questo? No, ho scelto filo nero proprio per avere l'effetto. Non c'era, poi sì. Stonava sulla bronzatura, si sarebbe visto ancora di più. Ah beh, questo vuol dire proprio essere professionisti raffinati. Grazie Leonardo, veramente una bella storia. Mi ricordava appunto il dottor Frankenstein. Ma chi è che da ragazzo si cuciva le dita come gioco? Non lo so, io giocavo a Monopoli, vabbè, no. Esistono delle persone al mondo che si chiamano ipocondriaci, io forse ne faccio parte, non lo so, però Carlo Verdone di sicuro, nella vita ma anche nei film. Abbiamo barato in due. Vado? Copro tutto fino al delirio schizzo. No, un genio sei! Che fai? No, mitico, mi dai da 40, ma No, c'è un'anamnesi pazzesca, mi sto qua, questo è da ultimo stadio. Io sono penultimo. No, ma è dovuto alla birra, è pericolosissimo, dai, cavolo, non si prendono le medicine così! Berni, ti prego, tienmi compagnia però, Sì, non mi va. Non mi lasciare da sola, no, non prego, ne ho bisogno adesso, posso... Prendi qualcosa, dai! Guarda, non ne ho bisogno, veramente... Vecchi tempi! Berni, prendi qualcosa, per favore! Ok, allora prendo, andrò sul vecchio Serenil. Ma dai, è superatissimo! No, non è superato, perché questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di ketazolam nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. No, con Decadol no, non puoi mischiare, sputa. No, Bila, non mi fare incazzare, sputa, è pericoloso. Ti prego, poco. Sputa la porca mia. 2, 3. Beh, mi ero incantato ad ascoltarlo. È una scena da Maledetto il giorno che ti ho incontrato, bellissima. Loro sono sul letto e arriva Verdone con questo sacco pieno di medicinali, lo versa tutto e cominciano a contendersi un po' le medicine, due ipocondriaci fuori di testa. Molto divertente. Roberto da Novara, adesso un altro ascoltatore che ha chiamato l'800 24 00 24 per raccontarci di quella volta che in vacanza mi è successo questo. Sono stato morsicato da un coccodrillo. Non lo so cosa sarà successo a Roberto. Pronto, Roberto? Pronto? Sei stato morsicato da un coccodrillo, no? No. Allora, 9 anni fa, era stata una tragedia. Dovevo partire per le vacanze con la mia bellissima ex. Sì. Scusa, bellissima ex, lo dici così, senza neanche un velo di nostalgia, però. Bellissima ex, perché purtroppo è ex. Vabbè, ex. No, non vogliamo sapere, era bellissima comunque. Dove andavate? Niente, io devo partire a casa sua, andare a Venezia, lei era di Venezia, sì. È di Venezia, e niente, ho preparato tutto, i bagagli per stare un po' di tempo, lo zaino, tutta gioia, ero tranquillissimo. Il giorno dopo non riuscivo a muovere le gambe. E cosa avevi avuto? Niente, sono stato preso da un virus, mi ha preso la schiena e le gambe, sono finito sulla sedia a rotelle. Ma scusa, all'improvviso cosa è stato? Niente, mi hanno detto che era un virus, niente, l'ho combattuta quell'estate con cortisone, poi ho fatto 3 mesi di ospedale e poi è tornato tutto come prima. Cioè, tutto come prima in che senso? E niente, sono tornato a camminare tranquillo e il peggio era passato. È passata anche lei però. Quelle sono cose, come posso dire, secondarie, dai. Ma meglio. Come è meglio? Bene dopo. Perché meglio a te. Certo, mi sono rifatto. Ti sei rifatto, lei non vogliamo neanche sapere cosa fai lì col gondoliere a Venezia, ma lasciamola perdere. No, ma comunque si è stata carina perché è venuta a trovarmi lei in ospedale. Ma eravate già ex? No, lì per lì no, è appena dopo, durante la degenza, diciamo. Ah, vi siete lasciati durante la degenza? Sì, perché lei soffriva troppo, insomma le varie storie... Vabbè, guarda, certe persone non sopportano certe Roberto, cose. Roberto, guarda, è una storia che merita una medaglia. Posso darti la medaglia Candy Candy? Della sfiga. Anche se non sei un infermiere, però voglio proprio dartela di cuore. Ma sono stato più io infermiere, anche pur essendo stato io il, diciamo... Vedi, allora sei stato tu infermiere. Sì, la parte in causa sono stato io, però ho dovuto io fare curare lei. Guarda, psicologicamente, diciamo. Io non posso fare la posta del cuore, mi viene da piangere. Grazie comunque Roberto, grazie. Ciao, buone vacanze. Ciao. Spero che Vito da Milano non mi faccia piangere allo stesso modo. Pronto Vito? Sì, ciao. Tutto bene? Ciao. Io sì, per ora sì, sai, si fanno tutti gli scongiuri di Vito. Ti racconto questa cosa che mi è successa nel 1978. Addirittura. nella ex, sì, l'altro giorno, nella ex Germania orientale, ero in visita con un gruppo di operatori italiani, in visita a un'azienda di macchine fotografiche, eccetera, molto importante, eccetera. Sì. A Dresda, appunto, e alla sera ho avuto una congestione piuttosto forte. E da lì in albergo si sono molto allarmati, hanno chiamato un'ambulanza e mi hanno portato in un ospedale che non aveva proprio i canoni dell'ospedale nostro tradizionale, è molto spartano, così, un'ambulanza che il viaggio è stato un'avventura. E diciamo così, quando sono arrivato, è arrivata, mi ha preso in consegna una dottoressa che era larga 2 metri per 3. Come le atlete dell'ex Germania Est, è presente? Era dopata probabilmente. Ah, beh, certo. Non so, ha avuto la cura di ormoni anche lei. E mi ha piantato una flebo, io naturalmente, a parte il male così, ero anche molto spaventato, però dopo 3 minuti che... Sì, che mi ha messo questa flebo qui, stavo già decisamente meglio, al che me la sono tolta e mi sono beccato insulti vari. In tedesco stretto, sei scappato, penso. Esatto. Sì. Ecco, stai correndo da allora, dal 78 stai correndo per sfuggire. Mi sto cercando ancora. E niente, comunque ti ho darato che quella flebo, anche se in minima parte, mi ha fatto bene, insomma. Se ecco. Per me ti ha fatto bene la visione di questa infermiera paurosa. Vabbè, grazie Vito. Probabilmente. Ciao. C'è anche Oscar. Pronto, Oscar? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io ho mandato il messaggio, è divertente, interessante la cosa. In pratica mi è successo così, che ero andato in gita, una gita aziendale in Tunisia. Sì. No? E al mattino, prima dell'ultimo giorno, prima di partire, che è successo? Abbiamo fatto un giro al mercato. Uh-huh. E mi ricordo che, questo l'ho pensato dopo che mi era successo poi il Montezuma, no? Cioè, ah, ricordo... finalmente un Montezuma, eccolo, sì, lo aspettavamo, sì, finalmente. Ecco, praticamente è successo, secondo me. Grazie, grazie. La causa era quella. Alleggeriamo, sì. È stata quella che uno al mercato mi ha offerto dei datteri. E dentro i datteri cosa c'era? Si fanno questi scherzi in casella? Ma datteri freschi, diciamo, sì, no? Diciamo era uno freschi. Che vendeva dei datteri per strada e me l'ha offerto e io li ho mangiati. Forse la causa di tutto era stato proprio quello, no? Fatto sta che io mi sono trovato niente per 2 o 3 ore, mi sono trovato all'aeroporto, sì, in fila con l'aereo che non... cioè si stava facendo la fila per la consegna dei documenti e a un certo punto all'improvviso mi è venuto una cosa impressionante, un Montezuma di quelli irresistibili. Un momento di un romanticismo, guarda. Il fatto è che mi ha preso il panico perché mancavano ancora una ventina di persone, come faccio a resistere, a stare in fila, eccetera, magari dopo la barriera ci sarebbe stato un... Fatto sta che non ce la facevo più e allora ho cominciato a guardare in faccia i militari e infatti uno ha capito e allora è venuto lì, mi ha preso dalla fila e mi ha indicato dove era il gabinetto e poi tutto si è risolto. Ma poteva nascere veramente un conflitto italo-tunisino perché tu scappi all'improvviso, ti prendono per un terrorista, non oso pensare cosa poteva succedere. Infatti pensavo anche quello, qui chissà cosa succede se mi agito, e invece ha capito che si vede che probabilmente capita abbastanza spesso. Esatto, i datteri lì girano come qua, non so, lo zucchero nel caffè. Grazie Oscar. Prego. Ciao. Allora, c'è ancora tempo per Mirko da Mantova? Sì, c'è ancora tempo. Mirko, pronto? Salve, pronto? Pronto, eccoci. Eccoci. Niente, volevo raccontarmi quello che ho fatto quando c'avevo intorno a 8-9 anni. Cosa hai fatto? E niente, io quando finivo la scuola, gli ordini dei genitori era prima i compiti, poi andare a giocare. Beh, come tutti d'altronde, scusa. Come tutti, approfittando che i miei erano a lavoro, sono andato a giocare a calcio con gli amici nel parcheggio e al posto delle porte si metteva due sassi, insomma. Sì. E niente, giocando sono andato a cadere, ho sbattuto la testa e mi sono fatto un taglio in testa, proprio in mezzo alla testa, un taglio di 5-6 centimetri. Addirittura. E allora per paura che arrivano i miei e mi davano la punizione perché non ho rispettato quello che dovevo fare, ho trovato a casa un tubicino, pensavo che sia la crema che usava la mamma per mal di testa, se c'è presente, c'era una volta una crema cinese che diceva che faceva passare il mal di testa, va bene, e l'ho messa sulla testa, invece era l'Atac. Cioè ti sei messo la colla sulla ferita? Eh sì. E sei ancora qui a raccontarcela? Eh sì, morale della favola, sono arrivato in pronto soccorso, mi hanno fatto in mezzo alla testa una specie di semiluna affinché sono ricresciuti i capelli, punture e tante altre cose, insomma. Vabbè, comunque ha funzionato la colla per chiudere le ferite, stiamo imparando veramente delle tecniche meravigliose di autoguarigione. Possiamo dire che ha funzionato in qualche modo. Tu non hai problemi oggi, tutto normale, le funzioni sono a posto? Ah, spero di sì, per adesso sì. Vabbè, ma sì, sì, sicuramente da anche quei momenti, da quei momenti con la testa ce n'ho avuto tante da fare, non è che... Vabbè. Non è la prima ferita. Beh sì, le ferite. Sì, come diceva Ross Stewart, la prima è quella più profonda. Grazie Mirko, grazie. Grazie a ciao, voi. Ciao, tale. Ciao. Bene, quindi tra infarti, ferite e tanti sistemi per chiudersi queste lacerazioni, siamo arrivati alla fine. Domani il tema sarà come siamo pazzi. Sì, domani sarà come siamo pazzi o come siamo pazze. Tutte le follie che avete fatto in estate, del tipo... Siamo stati in discoteca fino all'1:30 di notte. Capita di sentire questi discorsi sul tram. Bene, domani ne parleremo con un ospite qui in studio. Finalmente viene a trovarmi qualcuno e non quelli che ho dall'altra parte, ossia Mauro in regia e Claudia in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao!